Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Eccoci al secondo appuntamento di questa settimana con l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ben trovato al presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, un saluto a tutti. Parliamo di giovani. Tutti ne parlano, la politica in questi giorni insomma sta cercando di ritrovare il bandolo dopo le elezioni, giovani per cui è sempre più difficile insomma trovare spazio in, non solo in Italia ma credo un po' in giro per il mondo. Certo Mirko, le elezioni sono appena terminate e certamente speriamo che si riesca anche ad affrontare seriamente il problema dei giovani, soprattutto dei giovani che a un anno, due anni, tre anni da diploma vanno in cerca del lavoro, perché certamente oggi sappiamo che in questa crisi i giovani sono principalmente le vittime che sono maggiormente coinvolte e sono quelli che un indomani dovrebbero trovare occupazione e garantire anche la possibilità di pagare una pensione a chi lo è e pagarsi da loro e farsi un futuro, crearsi delle opportunità che oggi fondamentalmente gli mancano. E adesso abbiamo un rapporto 2013 realizzato da Alma Diploma e da Alma Laurea che hanno intervistato 48.000 giovani che fa un quadro di quella che è la reale situazione in Italia. Diplomati ovviamente di tutte le varie i vari percorsi formativi, quindi dai licei fino agli istituti di formazione professionale, e ovviamente c'è da aspettarsi che ci sia almeno questa è la tradizione, chi va al liceo trova meno facilmente il lavoro, chi è al professionale lo trova un po' di più, è così. Certo, diciamo che questo rapporto, che come abbiamo detto hanno intervistato 48.000 diplomati, sono ragazzi che hanno superato la maturità nel 2011, nel 2009 e nel 2007. Cos'è emerso? Fondamentalmente che già a un anno da diploma i giovani sono alle prese con la disoccupazione. E certamente, come hai detto tu, è un tasso di disoccupazione che varia anche in base alla percentuale di persone che hanno frequentato un istituto rispetto a un altro, e fondamentalmente traspare come comunque a un anno da diploma il 33% dei ventenni fondamentalmente sono a casa, non hanno trovato nessuna forma di occupazione e solamente uno su cinque è riuscito a trovare qualcosa diciamo di stabile, perché anche oggi parlare di stabilità non è facile e soprattutto è sempre più raro quella che è un'occupazione a tempo indeterminato. Sì, certo, magari uno trova un lavoretto così temporaneo, provvisorio, magari lo trova, viene conteggiato come posto di lavoro nelle statistiche, ma in realtà è tutt'altra questione la stabilità. Quindi se questi sono ancora in cerca di occupazione, cosa fanno? Magari intanto vanno all'università oppure scelgono percorsi diversi? Guarda, io continuerei a dare qualche dato perché il rapporto è veramente molto interessante, quello che ha snocciolato con questa indagine. Praticamente dicono che il 37,5% dei giovani diplomati sono quelli che hanno fatto un istituto professionale, mentre il 29% quelli che sono i liceali. E solamente, per dire solamente, il 21% sono quelli che hanno fatto un istituto tecnico, quindi parliamo comunque di dati molto alti. Tra i diplomati del 2011 solamente il 13% come abbiamo detto risulta avere un contratto regolare e il 19% di questi sono i liceali. Poi per quanto riguarda gli occupati, il 31% hanno trovato un lavoro a tempo determinato, quindi le solite formule flessibili, mentre solamente un quarto ha un contratto a tempo formativo. La percentuale che è riuscito a trovare un lavoro a tempo indeterminato, a distanza di oltre un anno dal diploma, è solamente del 15%. Ecco, quindi un panorama piuttosto desolante, e immagino che anche gli stipendi non siano sto granché. No, gli stipendi assolutamente non sono granché, perché quelli che lavorano a tempo pieno hanno uno stipendio netto di circa 925 euro al mese, che poi via via con le varie formule possono scendere addirittura a 643 euro al mese. diventa molto interessante anche valutare quelle che sono le aree con cui questi giovani trovano un'occupazione, e parliamo quindi di giovani fortunati in questo senso, perché la percentuale è veramente molto ridotta. Il 28% lo trova nel campo del commercio, il 17% nei servizi sociali e personali, il 16% nei servizi creativi e culturali, il 42% dei diplomati degli istituti professionali trova un impiego nel commercio, mentre il 25% viene assorbito dall'industria. L'industria assorbe ancora, sembra un po' strano, ma anche se questi poi sono dati nazionali, evidentemente. E parliamo della soddisfazione, perché poi uno certo trova un posto, guadagna qualcosa, insomma, non dico che si mantiene, riesce a vivere, però è sicuramente un introito importante. Sono soddisfatti questi giovani? Diciamo che il voto medio che i giovani danno all'occupazione che trovano è di 7,2, però è un dato che rispecchia certamente un valore soddisfacente, perché la scala di valutazione era fino a 10, mentre per quanto riguarda la percentuale dei giovani che sono riusciti ad utilizzare il diploma che hanno studiato per poterlo poi applicare in quello che è un lavoro che hanno trovato, il 42% ha dichiarato che praticamente non è servito fondamentalmente a nulla. E insomma, dati che non ci confortano del tutto, questi per quanto riguarda i giovani. Grazie Carlo, grazie all'Adico, appuntamento la settimana prossima con altri due argomenti. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.